335 100 77 77. Sono passate da un paio di minuti le ore 2, quindi già 2 ore se ne sono involate. Il nostro numero di sms ve l'ho appena letto. Ringraziamo Marco da Pisa. Quando c'è Witching Hour aprite le finestre che sistema lui. Sì, ci abbiamo già pensato. Stai tranquillo, Marco da Pisa. Ancora una volta andiamo a salutare il nostro amico. Ci sono anch'io stanotte fino alle 6 con voi. Rock and roll non morirà mai finché ci sono persone che lo amano. Siete speciali. Mancino Max, buona giornata anche a te. Salutiamo Giulia, rocker da Forlì, che ci ringrazia. Che ne dite dei Savatage? Federico da Cesena, abbiamo anche loro. Ancora Mara da Muggiò, che ciao Max, tu chiami la radio di servizio e contatta chi vi ha registrato stanotte. Beh, noi stiamo registrando tutti. Cara Mara, lo stiamo facendo noi direttamente, quindi non c'è un problema, avremo modo di farvela arrivare chissà tramite rockfamily.it, ce lo auguriamo, sono in qualche modo è archiviata comunque. arriveremo. Poi ancora una volta un saluto da parte di Klaus. Ci chiedono se abbiamo anche Blue Ester Cult. Vediamo, caro amico Gabri 71, ho rimediato al problema al volume, mi sono messo le mie cuffie così non sveglio più nessuno. Ivan, bravo Ivan, hai azzeccato il modo di ascoltare di notte questa Hard Heavy Nightmare. Elena, anche lei è presente. Molte donne, devo dire, Max, che ci stanno ascoltando in questa nottata. Ottimo, direi. Ottimo. A proposito di donne, Matte e Sara, siamo con voi da Firenze. Ancora una volta sono qua come un latitante che ascolto Meta con le cuffie per non svegliare i miei. Come vedete sono in molti che ci stanno ascoltando. Luigi da Firenze, ritornate presto alla Frog, ascoltate lunedì Rock FM e vi diremo qualcosa in merito. C'è una grossa sorpresa per voi. Ok, poi ancora André, buona giornata, anzi buona giornata, sì, buona mattinata anche a te, e tieni duro che ce la farai a rimanere con noi. Salutiamo Maurizio dalla Versilia, anche lui non molla. Poi ci minaccia, dice basta con questa musica, è troppo bella, quindi come faccio? Non sembra riesco di ascoltare Linea Rock, Marco. Vedi, perché un po' siamo andati in quegli anni, siamo andati un po' in quegli anni, qualcosa naturalmente l'abbiamo ritrovato. Forza ragazzi, nessuno dorme stanotte, sto tornando a casa in netto stato di ebbrezza. Allora vai a piano, spero che tu stia camminando e non stia guidando. Prendi un taxi. Ecco. E sei a Milano, abbiamo tanti amici che fanno questo lavoro. Ok, ringraziamo anche Fabio che ha scritto un post in diretta, poi magari avremo tempo di andarlo a leggere. Fammi solo salutare un secondo, Marco, queste mail che sono nell'altro studio sono difficili da gestire. Saluto Rita, l'amico Gianfranco da Empoli, grazie alla Chiavarese a Milano, grazie a Fabio da Bagnacavallo in provincia di Ravenna, tutti ovviamente all'insegna della nottata insieme a noi in nostra compagnia con la buona musica. Un saluto a Chiara, un saluto a Rominula, un saluto a Matteo da Ravenna, ancora Ga, un saluto anche a Minti e per ultimo, ma non per importanza, Matteo da Ravenna che ci ringrazia. Ho già le corna al cielo, dice non fatemele abbassare, guarda, fino alle 6 sarà dura che tu riesca a abbassare le corna al cielo e gridare il fottuto rock and roll. E visto che abbiamo ascoltato un grande chitarrista che porta il nome di Steve Vai, altro grande chitarrista che purtroppo, ahimè, non è più con noi. Stiamo parlando. Questo è un grande personaggio che abbiamo, i più forse hanno conosciuto ovviamente per la sua militanza con Ozzy Osbourne, ma Randy Rhoads aveva già militato, e di lui che stiamo parlando ovviamente, aveva già militato in una grande band, o quantomeno quella che poi in seguito sarebbe diventata una grande band. Tra l'altro giustamente con Marco riflettevamo sul fatto che sono un paio le scomparse eccellenti che purtroppo hanno funestato la carriera dei Quiet Riot, di recente Kevin Dubrow e appunto Randy Rhoads, che invece ormai già da qualche anno purtroppo a causa di questo incidente aereo, o meglio legato all'elicottero, ha perso la vita. In ogni caso vi stiamo facendo ascoltare un brano davvero speciale dei Quiet Riot, viene definito The Randy Rhoads Years, perché in effetti Randy Rhoads ha iniziato la sua carriera con i Quiet Riot, o quantomeno i Quiet Riot hanno iniziato la loro carriera. I primi due album, che tra parentesi all'epoca quando uscirono solo per il mercato giapponese, costavano un fracco di soldi, era impossibile, poi sono stati ristampati eccetera eccetera, però le copie originali le cercavamo su vinile ed erano giapponesi e costavano veramente tantissimo. Poi è arrivato il successone quando non c'era appunto, come hai detto, più Randy Rhoads con i vari singoli, Metal Elf eccetera eccetera. Ecco, la particolarità del brano che stiamo per farvi ascoltare è che è un brano che poi ritrovate sul primo album dei Quiet Riot con un altro titolo e con un testo completamente cambiato. Il titolo presente sull'album è Mama's Little Angels, la versione che invece vi facciamo ascoltare noi, che potremmo definire la versione primordiale, la demo quasi, la prima stesura con Randy Rhoads ovviamente alla chitarra, si intitola Last Call for Rock and Roll. Questi sono i Quiet Riot. We'll be right back. Diciamo che il marchio di fabbrica dei Quiet Riot è davvero inconfondibile, soprattutto grazie alla voce di Kevin Dubrow, il purtroppo compianto Kevin Dubrow. Questa era Last Call for Rock and Roll, un brano mai pubblicato, tra l'altro. Ma dove le ascoltate queste cose? Solo su Rock FM, ovviamente, nella speciale Hard and Heavy Nightmare. Dicevo, questa canzone con Randy Rhoads alla chitarra è stata poi rivisitata e ripubblicata sul primo album, Mama's Little Angels era il titolo modificato, però questa che abbiamo fatto ascoltare noi ovviamente ha un valore più importante, così come ha molto valore anche la prossima canzone, visto che parliamo di un gruppo che in molti tra l'altro vi domandavate se ci sarebbe stato questa notte, ma ovviamente sì, certo, non si può fare a meno di loro. Torniamo in Europa, torniamo in Inghilterra, per l'esattezza nella città di Sheffield, la città che ha dato i natali ai The Flappard. È di loro che stiamo parlando, un gruppo che nella sua storia ha dovuto combattere purtroppo anche lui con parecchi lutti, il grande Stephen Clark che non c'è più, il batterista che ha dovuto subire questa grave menomazione, la perdita di un arto che ovviamente per un batterista è un elemento fondamentale, ma il gruppo è stato così... L'hanno aspettato, lui si è creato un kit molto particolare con il quale ancora adesso riesce a ovviare a questa sua menomazione suonando con i piedi dei kit elettronici. Beh, la particolarità dei The Flappard, secondo me questo non fa altro che dare merito alla band, perché in un periodo in cui molti gruppi in questi ultimi anni, dopo la pubblicazione di uno o due album, fanno un live, i The Flappard, che avrebbero motivo per pubblicare un album live visto la loro lunghissima e gloriosa carriera, non lo hanno mai fatto. Ufficialmente mai, non è uscito un live at eccetera eccetera, se non delle copie promozionali inserite nelle versioni digipack oppure nel doppio bonus track, esatto, cose esatto. del genere. Beh, insomma, quello che vi facciamo ascoltare noi questa sera è in effetti un live. Tra l'altro è molto bello che nella copia che possediamo, in effetti è di Marco, viene segnalato no overdubs, no remix, no bullshit, quindi è preso proprio direttamente dal mixer. L'anno era il 1992, l'anno nel quale i The Flapper portavano in giro il tour di Adrenalize, infatti ci sono un paio di brani di quell'album, anche se io per scelta di cuore sono rimasto legato a Pyromania, e la versione live dei The Flapper che vi faccio ascoltare è quella di Photograph. dalla Germania, tour del 92, esattamente da Bonn in Germania, Def Leppard con le note di questa Photograph. Andiamo un po' indietro nel tempo, sempre in Inghilterra, era il periodo della New Wave o British Heavy Metal, anche se loro si sono formati nel 78. Bei tempi, lasciamelo dire Marco, bei tempi. L'album lo pubblicarono il primo nel 1980, un gruppo che è venuto in Italia poche settimane fa, perché hanno anche una particolarità. Particolarità. Tigers Open Tank, caro Simone, la particolarità è? La particolarità è che il cantante attualmente è italiano. Jacopo Meille, cantante anche dei Mantra, adesso è italiano. Però tornando indietro a questo album d'esordio, Wildcat. Esatto. Del 1980, cioè, stava nascendo la New Wave o British Heavy Metal. Infatti possiamo paragonare anche al primo album degli Iron Maiden a livello di uscita, che è sempre del 1980. Alla voce c'era Cox, successivamente verrà cambiato il cantante, entrerà Deveril, che militerà per diversi album. Poi ci saranno diversi cambi di cantante fino ad arrivare a Jacopo Meille, ecco. E con l'uscita imminente del nuovo album. Del nuovo album, che presenteremo magari già la prossima settimana in Arden Devi. Quest'album, abbiamo detto, usciva nel 1980, Wildcat, con questa tigre naturalmente in copertina, e veniva aperto da questa Eutanasia. poesia, questo è il titolo del brano dall'album Wild Cat, il primo per i Tigers of Pentang nel pieno periodo della New Wave of British Heavy Metal. Rimaniamo in Inghilterra e lo facciamo con un altro personaggio, un gruppo storico, ma qui in una accoppiata d'eccezione. Stiamo parlando dei Motorhead. Uscì questo EP, poi ristampato anche come singolo, il giorno di San Valentino. In effetti venne intitolato St. Valentine's Day Massacre. C'erano i Motorhead con le Girls School, e quindi ritorna ancora il metal al femminile. Incisero praticamente tre pezzi, uno era Bomber, l'altro Emergency come B-side, la facciata si intitolava Please Don't Touch. Alla batteria Denise, quindi la batterista delle Girls School, chitarra ritmica Kim, chitarra solista Kelly e Eddie, al basso sia Lemmy che Enid, e alla voce si alternavano Kelly e Lemmy. Direte voi, è Filthy, insulti e ispirazioni, l'hanno messo fuori dal gruppo, lui non ha suonato la batteria. Questo pezzo si intitola Please Don't Touch, quindi Motorhead con le Girls School. Valentine's Day Massacre, poi per il massacro ci penserà Luca, non manca molto Luca, 35 minuti toccherà a te. Sono già riposato. Bravo, ti sei già riposato. Poi ragazzi, ti sei già riposato, va bene, bravo. Allora, qui abbiamo Motorhead con le Girls School e la Please Don't Touch. Altra chicchina, eccola qua, magari qualcuno ce l'ha, io ce l'ho, sia come singolo 45 giri e poi ristampato in un cofanettone che è già diventato una rarità, anche se è uscito pochi anni fa. Stiamo parlando degli Iron Maiden, questa volta Iron, prima abbiamo ascoltato Bruce Dickinson da solo, questa volta Iron Maiden. La particolarità è che questa canzone che andiamo ad ascoltare, che si intitola Remember Tomorrow, con Bruce Dickinson dal vivo, era la B-side del singolo The Number of the Beast, che è uscito nell'82, però Remember Tomorrow è stato registrato dal vivo a Milano. Proprio a Milano era la prima volta che Bruce Dickinson suonava un concerto dal vivo, in un palazzetto tenda che mi sa che l'hanno creato e montato solo per quel concerto, a fianco dello stadio di San Siro. Poi è scomparso, ancora adesso c'è questa spiazzola aiola col prato, e lì c'era questo teatro tenda. Dico questo perché al pomeriggio io ero lì, dovevo intervistare la band, avevano appena preso appunto Bruce ed era veramente molto emozionato, ha provato Rough Child almeno tre volte, non ci stava eccetera. Io registrai all'epoca anche tutto il soundcheck, loro non lo sapevano. Stefano, ce l'ho da qualche parte in cantina in una, su una cassetta, perché ero già lì col registratore, all'epoca il classico registratore col bel microfonone, dovevo fare l'intervista. Marco, dopo non dire così, sennò vengono a casa tua ma non è quella di mia mamma, non si sa l'indirizzo di casa di mia mamma. E poi feci l'intervista e ripeto, lui era veramente veramente emozionato. Comunque sappiate che questa Remember Tomorrow è stata registrata in quella sera, in quel concerto, c'erano circa 2000 persone perché era un teatro tenda piuttosto piccolino, era pieno, caldo, magari qualcuno di voi se lo ricorda questo concerto, Remember Tomorrow dal vivo a Milano, ottobre 1981. Comunque visto che c'è Bruce Dickinson, Scream for Me Rock FM ci sta, eh. Yesterday's sorrow. Allora vi raccontava Marco di questa emozione di Bruce Dickinson, che in effetti in questo finale, in questo brano, non sembrava averla sentita più di tanto. Comunque un'ottima performance. Sì, sì, però il pomeriggio si vede la tensione, eccetera. Ci sarà riscaldato, esatto. Tra l'altro è la particolarità che qui ovviamente Bruce Dickinson si cimentava con uno dei brani che facevano parte della prima parte della carriera degli Iron Maiden, quella e chi ascolta Rock FM sa che io ho una particolare predilezione per l'altro vocalist, il primo vocalist, e quindi si dice par condicio. Par condicio, anche noi siamo soggetti alla par condicio, però la par condicio del rock and roll che amiamo, e quindi per forza devo farvi ascoltare Paul Di'Anno. Tra l'altro lo faccio ascoltare ancora una volta in versione live, Iron Maiden Live Plus One. Questa... Anche me l'hanno richiesto perché era raro, ho portato anche questo. Questa è un'altra rarità che vi stiamo regalando questa sera. Il titolo del brano non ve lo dico perché ci penserà lui, Paul Di'Anno e gli Iron Maiden. Iron Maiden in versione live, Paul Di'Anno alla voce ovviamente. Questa era una bellissima versione di Phantom of the Opera, Iron Maiden Live Plus One. Questo era il titolo del vinile dal quale abbiamo ascoltato questa canzone, vinile che stiamo in effetti saccheggiando questa sera, ma è giusto così, visto che in buona parte stiamo proponendo materiale legato a un periodo storico nel quale il vinile aveva ancora una grande importanza, e grazie al ricchissimo archivio di Marco ne abbiamo la possibilità di farvelo ascoltare. Siamo in Inghilterra, ci rimaniamo, anche se l'epoca è decisamente diversa, anche l'atmosfera, l'ispirazione a questo gruppo inglese è decisamente diversa, un amore incontrastato nei confronti dei Rolling Stones, di Rod Stewart, anche un altro elemento sempre molto presente nella loro musica. Stiamo parlando dei nostri cari amici Choir Boys. Ecco, cambiamo proprio l'atmosfera, molto più da party, da pub, decisamente. Choir Boys, che io non so quando tu li hai scoperti. Io andai a Londra con un mio amico che adesso lavora in un'altra radio che conosciamo, e no, ti prego, non la nominare, non la nomino. Vabbè, siamo lì il pomeriggio, lui se ne va a comprare qualcosa da mangiare, in hotel accendo, c'era la MTV dell'epoca, e vedo passare questo video. Prendo nota, mai sentiti, Choir Boys, titolo di un singolo. Il giorno dopo andrai in quella di Piccadilly e cercai il singolo, lo trovai. Ce l'ho ancora a casa, però questa sera ti ho portato questo. Quindi si parla veramente di anni, anni, anni, anni addietro. Ancora una volta rimaniamo legati al vinile per un singolo, uno dei tanti che i Choir Boys pubblicarono, soprattutto nella loro parte iniziale della carriera. Beh, a Londra, io ricordo, in quel periodo ebbi la fortuna di vivere alcuni periodi della mia vita in quella meravigliosa città, e i Choir Boys erano veramente dei numeri uno, cioè suonavano praticamente ogni sera, in ogni club suonavano, e ogni luogo in cui suonavano era sempre completamente sold out. C'era un grande amore, una grande passione, direi anche meritata, visto che loro sono sempre stati una grande band, soprattutto dal vivo hanno dimostrato una grande capacità, cosa che tra l'altro fanno ancora adesso, visto che continuano a essere perennemente in tour e che continuano anche a pubblicare dischi. E allora rimaniamo in Inghilterra, come si diceva, Choir Boys è il loro nome, uno dei tanti singoli che hanno caratterizzato il periodo più fortunato della loro carriera, il periodo iniziale, si intitolava There She Goes Again. Yeah. Star Boys con le note di questo mix, addirittura in versione vinile, sentite il gracchio. Ci chiedono il metallo nazionale, arriverà tra breve, prima dell'appuntamento con Luca e Witching Hour abbiamo anche un paio di proposte del buon metal italiano, quindi cari amici, anche loro giustamente non li lasciamo da parte, assolutamente. Un'altra delle domande più ricorrenti tra i vostri messaggi, che continuano ad arrivare tantissimi, tra l'altro vi ricordo 335 100 7777 per l'SMS. Molti ci state chiedendo: ma siete veri o registrati? Manca meno di un quarto d'ora alle tre. Siamo verissimi. Verissimi, verissimi fino alle 6 del mattino, ragazzi, sennò che senso avrebbe questa lunga nottata speciale Hard and Heavy Night? La registravamo, eccetera. No, siamo qua dal vivo. Siamo qui, anzi, se volete scriverci, siamo molto felici di potervi rispondere o quantomeno scoprire che ci siete. So che questa è l'ora critica, è già avanti nella notte, e quindi un grazie e un plauso a tutti coloro che sono in questo momento ancora sintonizzati con noi, perché poi magari qualcun altro si alza alle 5 eccetera, invece questi stanno tenendo duro. Grazie per la fedeltà con la quale vi state così cibando di buon hard rock e buon heavy metal. Allora, un altro dei nomi che è di attualità in questo periodo e ovviamente quello dei Kiss. Siamo recenti, io in prima persona, siamo reduci anzi da un concerto veramente stupendo. Forse la magia del luogo nel quale si è tenuto, ovvero l'Arena di Verona, ha sicuramente contribuito a rendere ancora più magico questo show dei Kiss, che ovviamente non potevano mancare in questa serata, anche se anche in questo caso vi stiamo facendo ascoltare davvero davvero una rarità. Infatti gli amanti dei Kiss sapranno che c'è una fase che precede la nascita della band dei Kiss, nella quale Postelli e Gene Simmons si facevano chiamare Wicked Lester. Questo è il progetto con il quale sono partiti, sono state le prime registrazioni, il primo materiale registrato appunto da Stanley e Simmons è stato proprio a nome Wicked Lester. Poi in seguito sono diventati Kiss, e la canzone che sto per farvi ascoltare è una dei grandi successi, grandi classici, li possiamo definire così, della loro carriera. Il brano è She, però non ve la faccio ascoltare nella versione dei Kiss, ma in quella dei Wicked Lester, che è in effetti vagamente differente, ma del resto erano ancora giovanissime, erano le prime armi, credo fossero davvero le prime session, sì, esatto, in studio, primi quindi, demo. Esatto, quindi questo per farvi apprezzare. Questo ovviamente non vuol dire che non riascolteremo anche qualcosa dell'altro repertorio dei Kiss, però questa è davvero una chicca preziosa, come quasi tutte quelle che vi stiamo facendo ascoltare in questo speciale Hard and Heavy Nightmare. E allora ascoltiamoci Wicked Lester, progetto precursore dei Kiss. Il brano, come vi dicevo, è She. quasi progressive questi pre-Kiss che abbiamo ritrovato con le note di Sci, quindi un'altra chicca che il buon Max ha portato questa volta dal suo repertorio. Ci avviciniamo alle tre, abbiamo promesso due pietre miliari del metal italiano. La prima ci porta in quel di Livorno con la Strana, quindi Strana Officina, quindi tanto di cappello a questo grande gruppo. Il secondo poi ancora ne parleremo, ancora in attività, sì, nonostante i problemi che purtroppo li hanno colpiti durante la loro storia. Qui siamo veramente nel periodo della Italian Metal, il periodo diciamo della New Wave of Italian Heavy Metal. Heavy Metal, appunto, questa era la risposta italiana alla New Wave of British Heavy Metal, con tante band di quel periodo che purtroppo, essendo in Italia, avevano pochi spazi per suonare, pochissime etichette indipendenti che stampavano gli album. Di major non se ne parlava assolutamente, quasi adesso non se ne parla, figuriamoci in quel periodo. Però c'era una forte attività, perlomeno di autoproduzione, di demo, di singoli, eccetera eccetera, e uscirono anche delle compilation, e questa compilation che riporta i Crying Steel, Steel Crown e altre formazioni vede anche la Strana con un loro cavallo di battaglia. La compilation è Heavy Metal Eruption, se non mi ricordo, il brano, esatto, dovrebbe essere quello, il brano della Strana, si intitola Arriva, eccolo qua. proprio di recente, a Milano, a Alcatraz, c'è stato l'Italian Gods of Metal, con anche la Strana presente, un sacco di band italiane. Naturalmente c'era anche, oltre alla Strana che abbiamo ascoltato con Non Sei Normale, un'altra band che ha caratterizzato da sempre il metal in Italia, è il gruppo naturalmente di Pino Scotto, che oggi, quindi il gruppo dei Vanadium, ho portato tra uno dei vari vinili che hanno pubblicato, questo si intitola Erase with the Devil, e se non sbaglio abbiamo scelto proprio la canzone che chiudeva questa facciata, la facciata addirittura, album della Durium, non vedo, non si è riusciti a trovare l'anno di pubblicazione, magari se qualcuno ascolta e ci aiuta, ci può dare questa dritta, 335-100-7777, Erase with the Devil, Vanadium. Thank you. dobbiamo rispettare la tabella di marcia, abbiamo superato già le ore 3 come promesso, quindi tra pochissimo ritroverete il buon Luca con Witching Hour. Molti mi scrivono 83, la pubblicazione dell'album Race with the Devil dei Vanadium che abbiamo ancora in sottofondo, uno mi dice l'85, beh, mettetevi un po' d'accordo, però sono più gli 83 che non l'85.